Cero casiello che vogliava il cielo, una stazione, un treno pieno di valigie, trabocchi affacciati sul mare come vecchi pescatori con le mani nel tempo. Le sere trascorrevano lente, passeggiando per il corso mano nella mano, tra i panni stesi alla luna che sorride, un faro nella notte di Termoli. Ogni giorno vissuto in un respiro, una parola, un ricordo, un sospiro, che rivivrai soltanto tornando. C'era un castello che vegliava il cielo, una stazione, un treno pieno di valigie, trabocchi affacciati sul mare come vecchi pescatori con le mani nel tempo. Le sere trascorrevano lente, passeggiando per il corso mano nella mano, tra i panni stesi e la luna che sorride, un faro nella notte di Termoli. Ogni giorno vissuto in un respiro, una parola, un ricordo, un sospiro, che rivivrai soltanto tornando. C'era un segreto chiuso in un cassetto, sulla sabbia d'Ario Vivo si vedeva l'infinito. Una finestra che guardava le barche e due sedie vuote che parlavano più di chi le ha tenute. L'estate ascendeva fino a piazza Sant'Antonio con l'odore di sugo e basilico fresco, e in agosto era sempre una festa che ti lasciava i ricordi, ricordi di un bambino. Quando il mare conosceva tutti i nomi, li cullava dall'alba al tramonto, e le onde sembravano voci, voci che non invecchiano mai. Dal castello svevo, guardavi il mare, i nostri ricordi che puoi ancora sognare, e Termoli restava impressa nella memoria finché il cuore non la risveglia. Conosceva tutti i nomi, li scriveva sulla pelle piano, e ogni granello di sabbia era un ricordo scolpito nella memoria della gente. Ora che il tempo cammina lento, tra fotografie, canzoni e profumi, resta solo quel ricordo di casa che non dimenticheremo mai. Conosceva tutti i nomi, li scriveva sulla pelle piano, e ogni granello di sabbia era un ricordo scolpito nella memoria della gente. Ora che il tempo cammina lento, tra fotografie, canzoni e profumi, resta solo quel ricordo di casa che non dimenticheremo mai. Fotografie, canzoni e profumi, resta solo quel ricordo di casa che non dimenticheremo mai.